Corsa 24, i gialli della storia. Era andata a una festa in prefettura, perché ero molto amica dei figli del prefetto di allora. E lì siamo stati fino a ballare, fino alle 3 di notte. Io esco attraverso la strada, ma faccio sul Mugnone, su questo torrente, e vedo che era salito enormemente. Quando l'acqua smise di fare quel rumore spaventoso, diventò una calma e un silenzio impressionante. Un silenzio assoluto, è calato sulla città un silenzio di morte. Il 4 novembre del 66, 80 milioni di acqua e fango invadono la città di Firenze in meno di 12 ore. Un disastro naturale che mette a dura prova un patrimonio artistico inestimabile che ha dato vita a una straordinaria prova di solidarietà che ha coinvolto tutto il mondo. È la storia di migliaia di giovani sconosciuti arrivati a Firenze per dare una mano. È un vero giallo con un esito più che positivo e che non ha precedenti in Italia e nel mondo. Oggi a Mix24 raccontiamo quei giorni e come è nata un'esperienza che sarà indimenticabile. In Toscana piove ormai da una settimana, si teme un'esondazione dell'Arno, il prefetto e il questore allertano l'esercito e le forze dell'ordine, ma per la popolazione non scatta ancora nessun allarme, come racconta Giorgio Battini, cronista della Nazione. L'incarico che ebbi io da quelli che smontavano, stai attento a Ponte Vecchio. Nella giornata cominciò con questo, era l'alba, era ancora buio, e mi alzai, mi vestì e corsi sull'alba per vedere il Ponte Vecchio. Quando mi accorsi che verso la zecca, la torre della zecca, l'Arno stava superando le Spallette. L'Arno quindi sta straripando e si dirige verso Piazza Santa Croce ed è un vero fiume in piena, come racconta padre Massimiliano Rosito, uno dei giovani francescani che custodivano i tesori della Basilica. Siamo usciti sul Sagrato e che abbiamo visto? Abbiamo visto una macchina senza guidatore che veniva trasportata dall'onda, che veniva dal corso dei tintori, e venivano verso la piazza così, navigando da soli. La piazza in pochi minuti è piena d'acqua. Intanto il sindaco Piero Bargellini è a Palazzo Vecchio per raccogliere le prime informazioni. I quartieri oltranno sono sommersi e gli abitanti cercano rifugio sui tetti e aspettano i soccorsi. Ma gli uomini sono pochi. Carabinieri e polizia sono partiti nella notte per rispondere alle chiamate provenienti dal Valdarno e anche i vigili del fuoco hanno gli uomini contati. Non c'era quasi più nessuno. E soprattutto quei pochi che c'erano, stava preparando la radio, stava cercando di... perché anche, stava tirando sulle macchine perché... le macchine pensavano di rimanessero, le macchine nostre, dei pompieri, rischiavano di rimanere alluvionate, no? Sotto l'acqua. In pieno centro, nella galleria degli Uffizi, l'Arno ormai invade i depositi e i laboratori del piano terreno. Bloccato in casa, il sovrintendente Ugo Procacci è in ansia. Per questo telefona Umberto Baldini, capo dell'equipe dei restauratori, pregandoli di salvare almeno le opere più importanti. Un politico 18, l'incoronazione della Vergine degli Uffizi di Filippo Lippi, un dipinto di Almantegna, un dipinto del Tiepolo e altre tante cose importanti che naturalmente, fortunatamente, riuscimmo a portare tutte fuori. In città la situazione peggiora di minuto in minuto. Alle murate, le carceri cittadine, l'acqua filtra ormai nelle celle al piano terra. Palazzo Vecchio decide di chiedere aiuto a Roma, ma il 4 novembre è festa nazionale. In tutta Italia si celebra la giornata delle Forze Armate. Aldo Moro, presidente del Consiglio, è a Trieste. Paolo Emilio Taviani, ministro degli Interni, è a Bari. L'unico a cui rivolgersi è il ministro del Bilancio, Giovanni Pieraccini, anche lui fiorentino. Facevo il bagno, era la mattina abbastanza presto. A un certo momento... mia moglie mi chiama e dice: ti chiamano da Firenze, è successo un disastro, un grande disastro. Ma che disastro? In piazza Santa Croce nel frattempo l'acqua è arrivata a 5 metri di altezza e preme con violenza sull'ingresso del chiostro superiore della basilica. E allora padre Rosito sale sulla loggia del campanile per rendersi conto della situazione. Alle 9 in punto questa porta si è spalancata e l'acqua è venuta nei chiostri così a cascata. La città era già invasa. Da Ponte San Nicolò a Ponte alle Grazie era già, l'acqua faceva pari. Il centro storico della città è già invaso dall'acqua e dal fango. Alla Biblioteca Nazionale il custode Umberto Giorgi e i pochi colleghi arrivati prima dell'esondazione tentano di spostare le collezioni librarie più preziose. È una lotta contro il tempo. Tentò a salire le scale con questi, erano catalogo, erano tutti libri di una certa, di 70-80 centimetri, insomma, tutti libri abbastanza voluminosi. Ma poi a un certo punto dovemmo salire le scale anche noi, perché l'acqua ci passava sopra le gambe. Nella Basilica di Santa Croce intanto i francescani tentano di mettere in salvo i confratelli più anziani e i preziosi corali custoditi nella sagrestia. Padre Rosito non ha un attimo di tregua. L'unica cosa salvabile qui in Santa Croce erano le cose di sagrestia, i corali per esempio. Abbiamo preso sulla testa anche i vecchierelli che avevano 75 anni, 80 anni, questi corali colossali, che sono poi celeberrimi questi corali, che insomma, l'abbiamo portato nel convento, nelle zone più alte del convento, in modo che non fossero alluvionati. Anche al carcere delle Murate la situazione sta precipitando, i detenuti una volta usciti dalle celle si rifugiano sul tetto per cercare scampo. Ma in tutta la città sono naturalmente ore frenetiche. Gino Cacace, il vigile del fuoco che abbiamo ascoltato, percorre le vie del centro a bordo di un canotto. Da una finestra, ormai a pelo d'acqua, chiedono aiuto un vecchio e un bambino. Ecco la sua incredibile testimonianza. Guarda, rimani qui con tuo nonno, perché tu vieni su questo canottino, insomma, è pericoloso. Dice, ma io voglio andare dai miei genitori, e erano dalla parte della strada, no? Insomma, ci fu verso il cominciano. Allora, si portò al centro di questo canotto, si partì e poi si arrivò a forza di, naturalmente, tutto quello che dove si era, a venire in su ci sarà adesso delle ore, a ritornare in via Doni, dove poi si svoltò, ci si mise pochi secondi da come l'acqua stava tirando. Agli Uffizi intanto si tenta di salvare le tele del corridoio vasariano. È una delle più importanti collezioni al mondo. Decine di ritratti, alcuni dei quali tuttavia di peso proibitivo. L'impresa è affidata ancora una volta al professor Baldini. Li mettemmo tutti di taglio, questi quadri che erano seguiti su tavola, e poi facendoli scorrere, diciamo, proprio pigiandoli velocemente, mantenendo quindi l'equilibrio sul pavimento, si riuscì a portarli via tutti. Sono state una settantina di opere. Per Baldini non c'è un attimo di tregua. All'interno del museo, dietro la cappella di San Pier Scheraggio, c'è un laboratorio di restauro. L'acqua lo ha già invaso. Molte opere vengono messe in salvo attraverso uno stretto accesso secondario, ma l'incoronazione della Vergine di Sandro Botticelli è troppo larga, non passa. Riuscimmo a fare una specie di piccolo grattacielo di capre di legno, e poi piano piano insieme, tutti insieme, a metterci, a depositarci nel piano superiore l'incoronazione della Vergine di Botticelli. Se l'acqua anche fosse salita ancora, non sarebbe certamente, non avrebbe potuto raggiungere la superficie dipinta. Se poi la raggiungeva, come si diceva allora questa è l'alluvione, non è più l'alluvione, ma è l'arca di Noè, il diluvio universale. Alle murate intanto si registrano alcune evasioni, ma i figli di un ispettore della polizia penitenziaria sono intrappolati dall'acqua in un appartamento ai piani più bassi dell'istituto. E a questo punto ricorda Alessandro D'Ortensi che tutti i detenuti rimasti si lanciano al loro salvataggio senza esitazione. Si apriva un cancello, avevamo divertato un cancello, ci siamo buttati in acqua, abbiamo fatto la catena umana tra la sezione cubicolare delle nostre celle e il reparto dove stavano questi bambini nell'abitazione dell'ispettore. E abbiamo fatto questa catena, l'abbiamo passato uno per uno man mano, l'abbiamo portato nella sezione, poi direttamente portati su all'ultima sezione dove c'era la sartoria. Ormai è notte, la macchina dei soccorsi, finora lentissima, è finalmente in moto. Un reggimento dell'esercito si accampa a Campo di Marte vicino allo stadio, mentre il ministro Pieraccini è il primo rappresentante del governo a arrivare in prefettura dopo 12 ore di viaggio. Fui messo su un battello pneumatico e così, credo, l'unico uomo nella storia di Firenze che è entrato in battello nel Palazzo Medici Riccardi. Dopo una giornata da incubo c'è però anche il primo segnale di speranza. L'acqua sta cominciando a scendere. In prefettura si cominciano a contare i danni e il quadro si fa subito preoccupante. Ancora il ministro Pieraccini. Poi venne l'alba, venne il 5 novembre e lì l'acqua cominciarono a ritirarsi, si ritirarono, ma lo spettacolo fu ancora più drammatico perché le strade erano piene di mota, di fango, dove ci si poteva entrare a mezza gamba, di rottami, di cose, e le case invase dalle acque, i negozi distrutti perché le acque avevano solamente rovinato tutte le merci, tutte le cose. Finita l'emergenza inondazione, comunque la città vive un nuovo incubo. Nella Basilica di Santa Croce un capolavoro di inestimabile valore rischia di andare perduto. Perduto per sempre è il crocifisso ligneo di Cimabue. Padre Rosito e il professor Baldini sono tra i primi a tentare di fare qualcosa. Ho pensato di prendere un colino da brodo per setacciare il fango che era ai piedi della croce, setacciarlo tutto, quello era lo spazio così di fango, per vedere se c'era ancora qualche scheggia. Era al 30% già perduta tutta la sua superficie pittorica, almeno per quello che riguarda il corpo. Si strappavano i capelli, perché dicevo, frati, siete poco di buono perché avete fatto perdere il Cristo del Cimabue. Ma come si faceva a smuovere il Cristo del Cimabue? Per depositarlo come noi volevamo, sul piano, in maniera che non avesse a perdere, cadendo nel fango, pezzi di pittura o qualche cosa o altro, ci mettemmo 7 ore. Capolavori di inestimabile valore rischiano di andare perduti per sempre tra il fango e i detriti. In quelle ore, seguite all'esondazione dell'Arno a Firenze, manca tutto. Manca la luce, manca l'acqua potabile, non funzionano i telefoni, si verificano episodi di sciacallaggio e c'è addirittura il rischio di epidemie. Eccoci ai depositi dei mercati generali di Firenze, a San Lorenzo, dove migliaia di quintali di derrate avariate spandono miasmi insopportabili. Si profila il pericolo di epidemie. Intervengono i soldati con le maschere antigas. Il fetore supera ogni immaginazione. Impregna gli abiti fino al profondo delle fibre. Soltanto i soldati agiscono in questo ambiente malsano, impraticabile. Per ottenere l'apertura delle grandi celle frigorifere, le cui chiavi sono in possesso dei proprietari introvabili, è stato necessario emanare d'urgenza un'ordinanza prefettizia. e finalmente i genieri hanno potuto scardinare le porte blindate dei magazzini per consentire agli altri soldati di rimuovere partite di pesce e di carne. Disagi e privazione esasperano i fiorentini e lo sconforto emerge ai microfoni dei primi inviati della televisione di Stato, della RAI. Cosa volete io via? È un dramma e le testimonianze sono queste. Quello qui, dopo 17-18 anni di vita artigianale, con una passione ed un'attività non indifferente, voi come vedete la testimonianza l'è qui sul tavolo. Tutto devastato, è un po' difficile battersi. Spero, se troverò la forza e le necessità purtroppo sono grandissime. Io d'altra parte non so fare un altro lavoro, so fare questo dei lavori, per quanto io lo ami questo lavoro, ma sono anche preso da una necessità impellente per vivere. Non voglio mica vivere di elemosine. Le polemiche sui ritardi per gli aiuti, come sempre, non risparmia nessuno, neanche il sindaco Bargellini. Un sindaco molto amato che sarà il protagonista della rinascita di Firenze. Eccolo in un'intervista subito dopo l'alluvione. I danni, professore, i danni? I danni sono incalcolabili perché distrutta tutta la mobilia nelle famiglie e distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza. Dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe, le botteghe artigiane. Quante botteghe? 5-6 mila. Quindi a questa gente bisogna dare subito il filo, subito, in modo che possano domani ricominciare. È qui che rinasce la vita. Previsioni sulla ripresa? Previsione è il tempo che non gli si dà. Se si comincia da domani, a Natale sono quasi a posto. Speriamo. Tra un mese e ci vuole fino a agosto. Tra 3 mesi siamo tutti morti. Ma è il patrimonio artistico che suscita le maggiori preoccupazioni. A Firenze si sta correndo il rischio di perdere un patrimonio dell'intera umanità. La notizia rimbalza in tutto il mondo. Da subito, infatti, è chiaro che la buona volontà e l'ingegnosità non sono sufficienti per risolvere il problema. Per salvare quei capolavori insostituibili ci vogliono gli specialisti, i mezzi, le tecnologie. Insomma, ci vogliono i soldi. Tanti, tanti soldi. The effort which is taking place now in this great city is certainly worthy of the proud tradition. Il compito del comitato che si è formato adesso in America e in Inghilterra con il nome di CRIA è quello di fare di tutto per venire in soccorso a questo enorme capitale di valore umano e artistico che appartiene a noi tutti. Quella che avete sentito è la voce di Ted Kennedy, il fratello del presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, assassinato 3 anni prima a Dallas. E lui in quei giorni il capofila di una mobilitazione generale per aiutare Firenze a salvare con una raccolta di fondi i suoi capolavori. E Kennedy si dice pagheranno di tasca loro per i restauri. Ma a Firenze non arrivano solo i soldi. Arrivano anche tanti, tanti, tantissimi giovani che inizieranno una gara di solidarietà. Arrivano quelli che in tutto il mondo saranno conosciuti come gli angeli del fango. Ragazzi impegnati in una straordinaria avventura di solidarietà che coinvolge un'intera generazione. Sentiamo la voce di Richard Burton in uno speciale sull'alluvione realizzato da Franco Zeffirelli. Sono centinaia e centinaia i giovani e giovanissimi che dal momento del disastro hanno lavorato senza un momento di riposo a salvare la gente, i libri, le opere d'arte. Avete visto molte facce di cui non sapete il nome. Non sarebbe stato possibile identificarli tutti. Questi ragazzi andranno via come sono venuti e non sarà neppure possibile ringraziarli. Siamo nell'epoca beat per i giovani che andranno a lavorare a Firenze e anche un riscatto sociale e umano, come appare in questa lettera inviata al settimanale Epoca. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get. Spero che lei possa pubblicare subito la mia lettera. Spero che la firmi Francesco e a casa mia capiranno. Ho 15 anni e sono scappato da casa per venire a lavorare a Firenze. Non ero mai stato a Firenze. Adesso ci sono da 4 giorni e non mi deve cullare nessuno. La sera non sto più in piedi. Però due vecchie signore, grazie a me, hanno quasi sistemato la loro casa. Adesso gli vado a comprare il latte, poi glielo do e quindi le mando a dormire. E poi vedo dove imbucare questa lettera. Mio padre legge sempre la sua epoca, signor direttore. Io gli ho già scritto, ma dovrebbe dire una parolina a lei, a mio favore. Non sono scappato per non andare a scuola, ma per aiutare a salvare Firenze. Infatti, appena sistemate le mie signore, vado a lavorare in un museo. Papà, non giudicarmi male. Lo sai che ho sempre studiato, che ho sempre fatto il mio dovere. Papà, adesso il mio dovere era questo. Ciao. Saluta la mamma e le mie sorelle. Di salute sto benissimo, mai stato così bene. Francesco. Per giorni e settimane, in un clima straordinario di passione e partecipazione, tutti si dedicano anima e corpo a un'impresa estenuante: salvare i capolavori di Firenze. E nel giro di poche settimane tutti questi sforzi producono i primi risultati. Di nuovo il professor Baldini, uno degli eroi del salvataggio delle opere d'arte. Si tratta di un primo intervento che permette, diciamo, di stabilizzare la situazione di questo specie di primo giorno per i quadri, ragion per cui poi essi avranno bisogno invece di essere tutti concentrati in un luogo apposito che si sta appunto apprestando in questi giorni, in modo che lì si possa compiere una specie di decelerazione di umidità, perché appunto bisogna che questi quadri perdano l'umidità molto molto lentamente. Per i volumi e giornali alluvionati dalla Biblioteca Nazionale si trova un rimedio originale: vengono asciugati negli essiccatoi del tabacco di Città di Castello e ricomposti con pazienza certosina da centinaia di volontari. Dopo una storia di falsi allarmi e di inseguimenti roccamboleschi, anche l'avventura degli evasi finisce. Ma soprattutto per i detenuti rimasti alle murate e protagonisti dell'eroico salvataggio di due bambini, arriva la grazia del Presidente della Repubblica. Alfredo Merlini, 26 anni, condannato per una serie di furti con scasso. Con lui altri 8 detenuti hanno lasciato ieri il carcere di Firenze, liberati con decreto del Capo dello Stato che ha concesso la grazia per il loro comportamento durante l'alluvione che ha colpito la città. Un altro lieto fine per quella che forse è stata la prova più difficile che Firenze abbia mai dovuto sopportare. I morti alla fine saranno 35. Nel giro di appena un mese e mezzo però la città è di nuovo in piedi. Quei giorni e quelle ore resteranno per sempre un'esperienza indimenticabile, un dramma che si è trasformato in un momento alto di unione e di crescita collettiva, come non sempre è accaduto in situazioni come questa. Sabato 24 dicembre del 66, in una Firenze che porta ancora i segni dell'alluvione, arriva il Papa Paolo VI per celebrare la messa di Natale in Duomo. Sulla via del rientro il pontefice chiede di vedere il Cristo di Cimabue. Tra i cronisti presenti alla scena c'è anche il giornalista Giorgio Battini. Io ho assistito a questa scena di un papa, di un personaggio che a differenza di tutti gli altri che hanno guardato il Cristo Cimabue, stava lì a pregare e ad assistere alla seconda morte di Gesù. Era una cosa molto particolare. Cioè, non si riusciva a capire quanto era il fatto che lui dispiacesse che un capolavoro di quel genere fosse ridotto così e quanto lui in quell'uomo spellato rivedesse ancora una volta Cristo. Mix 24.